anch'io primier scrissi e mostrai. Lor te di ben baciar mille mi chiedi, ma di tanti che lor io già ne diedi, tu crudel che quei che in lor baci stampai, stampar nel volto tu non mi concedi, e quel piacer che tu con gli occhi vedi, con la bocca sentire a me non saprai qual sia maggior de tuo diletti, sia di questi o di quei sia miglior fabbro.